Tutto è pronto per far partire un grandissimo concerto. Eccolo qua, buon ascolto a tutti voi. Grandissimo B.B. King dal vivo su Radio 2 Live con la sua Lucille impareggiabile. Giovane Fiati in Gran Spolvero. Ladies and gentlemen, we'd like to say for the past few minutes, been entertained by the world famous B.B. King, the blues band, directed by Mr. James Dolan. How about a nice hand to the blues? Thank you, and right here, ladies and gentlemen, without further ado, we'd like to bring it down front for the first and only time of the evening. So how about a nice warm welcome for the one and only the King of the Blues, the exciting Mr. B. B. La folla in piedi, gran delirio per accogliere il grande maestro, come ha detto il maestro delle cerimonie in ogni grande concerto di blues e di rhythm and blues, il maestro delle cerimonie che introduce la star. Eccolo qua, in un camicione bellissimo blu, tutto variegato, un po' africaneggiante. Che emozione, ragazzi, che emozione, 86 anni, ma ne dimostra sì e no, 65, ma neanche. Cosa fa? Oh, sta lanciando i plettri già in partenza. Il grande B.B. King sta lanciando un po' di plettri alla folla che è letteralmente impazzita. Tutti quanti in piedi a fargli foto, a salutarlo. In forma smagliante, ragazzi, pensate, sono più di 60 anni che calca i palchi di tutto quanto il mondo. Adesso si accomoda, si siede sulla sedia, fa il gesto di ok con il pollice alzato e imbraccia la sua chitarra, che prende il nome da una ragazza che stava in un night club dell'Arkansas tanti anni fa, e la leggenda narra che per scaldarsi, faceva un freddo tremendo in questo locale, e per scaldarsi accesero una stufa di kerosene che, cadendo per terra, diede fuoco a tutto quanto. La chitarra rimase dentro e B.B. King sfidò le fiamme per salvarla e le diede il nome di questa cameriera, che si chiamava Lucille. A voi B.B. King dal vivo. Coming out to be with us this evening. I'm gonna do a few out here and get on so Joe Cocker can come on and take care of business. Right here, I'd like you to meet the members of my group. Starting at the keyboard, that's Mr. Van Treese, Ernest Van Treese on the keyboard. Thank you. On the bass, young Reggie Richards. I can't hear you. Thank you. On the drum, Tony Coleman. Tony Coleman. Thank you. On the guitar, Charlie Dennis. Charlie Dennis. Way over there, Walter Riley. Walter King, ladies and gentlemen. Thank you. On the saxophone, Melvin Jackson. Melvin! Thank you. On the trumpet there, that's Stanley Abernathy. Stanley Abernathy. Thank you. Ladies and gentlemen, our band leader, his name is James Bolden, but we call him Boogaloo. Boogaloo. I'm the old guy. My name, B.B. King. Subito in partenza il maestro ha presentato tutti i suoi discepoli, i suoi strumentisti. I'm 85 years old. I'm ready to go to work now. Are you ready? Certo che siamo pronti. Hear you, I said, are you ready? Thank you. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, I know that some of the greatest singers ever came from your country. I said some of the greatest singers ever came from your country. I felt so good. I had the pleasure of coming over, doing one of the concerts with the great Pavarotti. È uscita Pavarotti, il nostro paese ha tantissimi grandissimi cantanti. E ho avuto la fortuna di aver lavorato con Pavarotti. You know, we had an Italian person that was born over there in the USA too, you know. I had a chance to meet him. All the people knew him real well, called him Frankie. Certo, Frank Sinatra. You don't know who I'm talking about, do you? Frank Sinatra! I don't know what you think, but I love him. Io l'ho amato tantissimo. Anything I say? I know my English is not so good. Elvis non era così bravo come Frank Sinatra, eh? I know that's your country. You're very loving people and you do such beautiful songs and you sing them so well. Anyway, I can't sing like that, but I can sing like B.B. So this one's for you and yours. Bring it down a little bit, please. Gentilissimo, continua a fare i complimenti a noi. If I can't have you, I cannot go on. I need you. Keyboard. baby, I try not to worry. Please come back and hurry, 'cause I need you. Una intensissima, direi quasi commovente versione, esecuzione di I Need You So, e ringrazio ancora, dedicata proprio al pubblico e al popolo italiano, noi italiani, al nostro bel paese, paese del bel canto. E allora riparte, c'è da notare questa cosa, che Vivi King non si è mai terminato nel dirlo: lui quando canta non suona la chitarra, quando suona la chitarra non canta. Nobody loves me, no. don't show out now. You don't play like that at all. You're doing that because this young gentleman right down here is listening to you. Don't listen to him. Don't listen. Well, I guess somebody... Hey, how's it going? Give him one. Go ahead, he ain't gonna stop. Fenomeno, pur stando sulla sedia non sta fermo un attimo, si muove continuamente mentre gli elementi della sua big band si esibiscono. BB King dal vivo dopo Everyday I Have Blues, un altro super classico qui a Radio 2 Live. Because walking is much too slow. When the moon peep over the mountain, there be I on my way. I'm gonna roam this mean old highway until the break of day. So give me one more kiss, honey. One more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, I won't be back. I got to kiss her one more time. Can I kiss her once more? I'm the one doing the kissing. My English ain't too good. All right, English. I'll try it once more. I wish you could hear me and understand me, rather. Do you know? You know what I'm trying to say? Do you understand what I'm trying to say? I like that. That's better. Thank you. Get his attention. Let's see. Hey, dude. That same mosquito must have bit me too. I see him scratching. Hey, see the guy scratching over there? Okay. There you go. I got kiss her once more. So give me one. One more, baby. I'll do it again. Don't have to run too fast. Now they won't take his ticket. I'm sorry. Sit down with me. Is that Papa? All right. That's cool. I miss my little guy too. Hello. Now you ought to say, ooh, we sorry. Give me one more kiss, honey. One more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, baby, I won't be back. No more. Let's go. All right. Con i fraseggi fulminei dimostra non soltanto di essere un chitarrista inarrivabile, ma un grandissimo showman, assolutamente d'eccezione. Ha flirtato, proprio il modo giusto di dire, con il pubblico, scambiandosi bacetti, battute continuamente. Mi fa venire in mente il grandissimo Louis Armstrong, che vedevo da piccolo in televisione. Credo che l'unico paragone possibile sia con un personaggio del genere, con il grande Satchmo. E qui abbiamo B.B. King, la leggenda vivente sul palco del Lucca Summer Festival. E ancora dal vivo, dedicato alle signore. Holy fellas. That's all right, you guys can go. I got a little guy right down there. He wants to take a picture. Go ahead. That's all right. Let him take whatever he wants. Your little dude down here. Hold that! I got a little dude right down here. Just for a minute, cut it, please. See, but no, that's wrong. How do you say please in Italian? You hear him? chiede la traduzione di please in italiano, vuol parlare qualcosa, qualche parola in italiano. Provoni, I heard the last one. È il pubblico che gli urla, per favore. We hold him up for a minute so they can see him. Please, we hold him up. Give this little guy. Yes. Sta chiamando uno del pubblico. Give sul palco. Hey, vuole, dice, mettete la luce su di lui, voglio parlare con lui. Vorrebbe parlare con ognuno, thank you, con ogni that persona yourself? Del pubblico, dell'immenso pubblico che gremisce la piazza Napoleone questa sera. That's good enough, that's good enough. All right, let him have some fun. Now jump on somebody, smack him, throw something on him. Yeah! He said that ain't too good. How old is he? Fingers. How old is he? Oh, he's three. How much? How many of you does... Well, give him a hand. He's 3 years old. C'è un bambino di 3 anni in braccio ai genitori nelle primissime file. Thank you, sir. Thank you. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I got a 4-year-old great-great-grandson about his eyes. Remind me of him. Yay! I'm sorry, you don't have to. That's your choice. Maybe not your choice, but if you want them and don't have them, then we're sorry. But if you do want them and don't have them, what am I saying? Well, anyway, you that have them, what a lucky person you are. Dice, dobbiamo renderci conto di quanto siamo fortunati. Tu sei la mia luce del sole. Now this is what we're gonna do. That's good. Now ladies, if you got your guy with you, your husband or and well, what you looking out there for? You got yours? You ain't got yours? Well, what you looking out there laughing for? You wasn't. You want everybody to have the same misery you have? Ladies, this time, I want to get you to sing with me, please. And when we sing this time, ladies, you that's got your guy... Hello. You that's got your person with you, I'm going to count four. When I count four, ladies, if you have somebody with you, I'm going to beg you to give them a reward. The reward is a kiss. E ancora baci, la ricompensa è il bacio. I'll wait till you get there. Go ahead. She's right in front of you. If you can't have no fun, I'm sorry. I'll have enough for both of us. You are my... My only sunshine, you make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Now, E quando il cielo è grigio tu sei il mio raggio di sole, un super classico di Jimmy Davis. E il bambino di 3 anni continua a scorazzare avanti e indietro e lui lo saluta sempre. It says, BB, I love you. I love you too. I can't see them. C'è il pubblico che chiede canzoni, che grida, urla titoli di canzoni che vuole sentire eseguite da B.B. King. E lui ascolta attentamente. Don't throw away Lucille. That's my girl, Lucille. Now, I'm gonna count. One. Questa è la mia ragazza, è Lucille, e ha accarezzato la sua chitarra. Two. Two and a quarter. Two and a half. Not yet. Yeah, baby. 3, 5. That's a good way to do it. Let's see. 4. Kiss. That's the way. Show them, lady. That's the way. You showed them. You showed them. That's the way. Isn't anyone over here have somebody they love enough to kiss them a little bit? It's terrible. I know those guys feel bad. I know they feel awful. That guy going out to beat that other one up because he didn't kiss. Credo che queste persone stiano un po' male perché nessuno si vuol baciare. Tu stai invitando tutti a baciarsi. He got on a black shirt. He got on a black shirt. Black shirt people beat other people up. I don't want to be beat up yet. Hold on. That's it. That is it. Give him a big hand. I know that guy feels good. I can't hear you! Now, this one is for the men. All right, men, I got one for you. La prossima è per gli uomini. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Honey, rock me all night long. Rock me, baby. Like my back ain't got so long. Hey, fellas. I said, gentlemen. Do you feel like singing, fellas? Can't hear you. Do you feel like singing? All right, do you feel like singing? Follow me, gentlemen. Rock me. Rock me. Rock me, baby. Rock me, rock me, rock me, baby. Hold that, hold that, hold that. Ha fatto fermare il gruppo. Vuole che la gente canti prima a destra, poi a sinistra, e che canti questa Rock Me Baby insieme a lui. You stop when I don't tell you to stop. I'm gonna cut you. You seem like you know what cutting is. You know what cutting is? Cutting is when it... Ha minacciato i componenti del suo gruppo di tagliargli la testa se non si fermano all'istante quando lui dice stop. That's good. What'd I do? Oh, present. From you, from your girl, or your girlfriend. to look at it. Bring it up here. Open it up. Qualcuno del pubblico ha mandato un bigliettino come omaggio a BB King, ha aperto il bigliettino e c'è una sua foto, un ritaglio di giornale in bianco e nero però, e dice: ho cambiato colore. È un regalo carino e si è emozionato. Continua a dimenarsi sulla sedia mentre continua a correre questa Rock Me Baby. Evidentissima la sua tecnica particolare, il maestro del vibrato è lui praticamente col dito, invece che andare su e giù per la corda fa dei piccoli incroci. Questa tecnica è definita hummingbird, colibrì, e lui è il campione di questo modo di suonare la chitarra. Boogie. Thank you so much. Enjoying yourselves a little? Are you enjoying yourself a little? Vi siete divertiti un po'? Certo. From the band and I. From the band and I. Guess who? Guess who? Someone really cares. Guess who? Doppietta fantastica questa, Guess Who, e prima ancora Phil Is Gone, probabilmente la canzone più famosa del suo repertorio, che conta almeno 100 canzoni. Phil Is Gone nel 1970 gli aveva fatto guadagnare il Grammy Award, l'Oscar della musica, per migliore performance vocale maschile rhythm and blues. B.B. King ancora dal vivo, Radio 2 Live. Thank you. You're terrific. I said you are terrific. Siete fantastici. I'm going to move on now. Within a few minutes, the great Joe Cocker is going to come out here and give you some Joe Cocker sound. The band and I. E si inchina. Thank you. Io e la band ci inchiniamo di fronte a voi. Thank you so much. May I come back again? Chiede se può tornare, come no? e si inchina ancora. E però vuol sentire il vuoto della folla che lo applaude. We gotta go. Thank you. When the saints go marching in, when the saints go marching in, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go cerimonie, the one and only, l'unico assoluto re del blues. King, che sulle note finali di questa When the Saints Go Marching In, e l'aver citato prima Satchmo, il grande grandissimo Satchmo, forse infatti non è stato assolutamente gratuito, perché solo lui, solo BB King può raccogliere l'eredità, lancia, continua a lanciare come una specie, una sorta di Babbo Natale, manciate di plettri, di chitarra a tutto il pubblico festante. Thank you, and bam! E arrivederci alla prossima volta. B.B. King ha calzato un panama bianco e uno spolverino nero, si batte un po' sul petto, guarda se in tasca ancora ha degli altri plettri, perché la gente ne vuole ancora, pur avendone lui gettato a piene mani, lanciato tantissimi centinaia di plettri di chitarra a tutto il pubblico, naturalmente firmati così come era firmata la sua Lucille, perché questa che ha suonato stasera era quella originale che gli regalarono per il suo 80° compleanno nel 2005, una grande festa con tantissimi artisti, suoi amici che parteciparono poi anche a un disco che fu pubblicato, e nel 2005 appunto gli regalarono la Gibson, la fabbrica della sua chitarra, gli regalò un'edizione speciale, quella dell'80° compleanno di Lucille, con una corona incastonata d'oro sulla paletta, la Gibson S355, della quale esistono varie repliche, uno volendo può anche comprarsi, no? Quella del suo compleanno, che fu fatta soltanto poi in tiratura limitatissima per lui e per i suoi amici, chitarra che gli fu rubata oltretutto nel 2009, fu rubata, però poi dopo fu ritrovata in maniera abbastanza rocambolesca a Las Vegas, comprata da un tipo che non sapeva neanche il valore incredibile di questa chitarra, non tanto materiale quanto proprio affettivo per B.B. King, e poi riuscirono a fargliela ritornare, e infatti lui adesso la utilizza per suonarla sul palco grande. Allora abbiamo sentito gli strumentali Strung Out e Two-Eye Shot, e poi B.B. King è entrato con I Need You So, Every Day I Have a Blues, Key to the Highway, You Are My Sunshine, Rock Me Baby, Thrill Is Gone, Guess Who, e il grandissimo finale che abbiamo appena ascoltato con When the Saints Go Marching In, super super classico del rhythm and blues, del soul, di qualsiasi musica possiamo definirla. A questo punto la musica non ha più etichette, la ricordiamo sempre da Louis Armstrong, ma questa versione anche di B.B. King, che ogni tanto, non sempre, chiude i concerti con questa The Saints Go Marching In, stasera ha voluto tributare e regalare al pubblico italiano e al pubblico di Radio 2, voi che ci state ascoltando qui dalla regia mobile in Piazza Napoleone a Lucca.